Il ministro Martino, ci assicura al Corriere di giovedì, è un galantuomo, anzi un galantuomo liberale. La definizione, sulla quale non abbiamo Dio ne scampi nulla da ridire, non comporta naturalmente un giudizio in termini di capacità e di efficienza, anzi, lo stesso giornalista che la avanza non può negare nel suo pezzo che l'attuale titolare della difesa si sia mostrato nelle risposte al question time della Camera sul noto problema delle torture in Iraq straordinariamente inetto. In effetti, un ministro capace soltanto di invocare in difesa dell'operato o del non operato suo e del gabinetto di cui fa parte l'argomento del noi non sapevamo niente non solo attira, ma letteralmente invoca una patente di incapacità. Perché per chi riveste certe posizioni, ovviamente, non sapere non è una giustificazione, ma un aggravante. L'argomento è stato largamente sviluppato in questa settimana dai commentatori dell'opposizione e persino da qualche incazzatissimo membro del governo, per cui mi asterrò in questa sede dall'infierire. Vorrei fare notare anzi che quel povero uomo, il ministro, dico, non aveva in fondo moltissima scelta. Non sapevamo niente, era stato assunto da subito come unica linea di difesa dallo stesso Bush, e cosa può fare un reale alfiere dell'atlantismo di fronte alle dichiarazioni del comandante supremo in persona? Non può far altro che dire che non ne sapeva niente neanche lui e restare lì a prendersi stoicamente la sua dose di ortaggi e pernacchi da quell'autentico gentiluomo che è. D'altronde vi confesserò che da quel tipo di argomentazione non riesco nonostante tutto a farmi scandalizzare. Il non sapevamo niente dei potenti mi è sempre sembrato molto meno deplorevole del loro eterno ricorrente non sono stato io. Che si risolve, in questo caso, si risolve nella pretesa che le conseguenze più sporche della guerra, le torture appunto, i massacri, le violenze, i delitti, la pulizia etnica, gli altri effetti collaterali che l'accompagnano da sempre, siano come dire degli optional, dei fenomeni accessori che si potrebbero eliminare con un po' di buona volontà e con un minimo d'ossequio alle sagge disposizioni dei capi. Come se la guerra in sé non consistesse nell'applicazione su vasta scala della minaccia di annullare, ammazzandolo, chi non cede il passo in battaglia o più in generale non si sottomette, una procedura di fronte alla quale, non cessanti, tutte le altre minacce possibili perdono di importanza. Che si possa fare la guerra realmente, senza violare i diritti umani, rispettando la legge internazionale, è una pretesa che rivela in se stessa la propria incommensurabile futilità. I tempi dei cavalieri che si affrontavano in reale tensione manifestando anzitutto la stima reciproca sono passati da un pezzo, anzi non sono mai esistiti. Oggi la guerra si fa in nome di una propria conclamata superiorità morale, civile e democratica sull'avversario che ci si propone per principio di distruggere. Difficile a questo punto stare a sindacare il lecito o l'illecito nelle azioni dei combattenti. Ma tutto ciò il ministro della difesa, come i suoi colleghi, non dà segno di volersene accorgere. Lui se ne sta lì, indossando la corazza della propria asserita ignoranza, con la stessa disinvoltura con la quale ostenta il suo completo di taglio inglese. Le brutte cose, a suo avviso, le fanno solamente gli altri, e quando gli si fa notare che quegli altri sono in definitiva gli amici e gli alleati che il governo propone al paese, si limita a ribattere con eleganti preterizioni retoriche che anche gli amici dei suoi avversari a volte si comportano male, come a dire che nel grande gioco del massacro internazionale una mano lava l'altra. Ogni paese ha i governanti che merita e quando per coprire un posto importante si trova un galantuomo che per di più è di aspetto piuttosto decorativo non ci si può che compiacersene. Certo, se ogni tanto riuscisse a prodursi in qualcosa d'altro che non lo scarico delle responsabilità saremmo ancora più contenti. E una cosa ci possiamo fare, eh? In fondo siamo in guerra. Un homme que je connaissais pas est tombé, je ne sais pas pourquoi. C'était un coup d'épaule de trop. Il est tombé dans l'eau.